Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, questa settimana voliamo da sud a nord per parlare di architettura e di natura e poi approfondiremo una soluzione per le vacanze che quest'anno va per la maggiore, il sommario. Oggi partiamo dalla Sicilia, da Scicli, provincia di Ragusa, una perla del barocco siciliano, un colore caldo che avvolge al primo sguardo. Poi risaliamo fino al Veneto, a Rocca Pietore, la frazione sotto Guda è uno dei borghi più belli d'Italia e poi parleremo di case da prenotare con Airbnb. I can fly, but I want his wings. Da tanto mancavamo dalla Sicilia, terra bellissima e ricca, di colori, di sapori, di stili e di contraddizioni. Questa volta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, che da ieri ha riaperto ai visitatori, ha scelto Scicli e il suo barocco, che è pieno, quasi ti travolge, eppure non ti stanca. Finalmente, perché è quasi una vergogna, Valeria, non siamo mai andate in Sicilia, quindi rimediamo subito e oggi in quest'isola che già di sua è meravigliosa, che io amo e tu pure, scegliamo una città che è talmente bella da essere stata dichiarata patrimonio UNESCO. Andiamo a Scicli. Allora, siamo a una ventina di chilometri da Ragusa, tanto per collocarla, in un territorio straordinario che va dal mare ai Monti Iblei e che quindi ha una serie, già dal punto di vista paesaggistico, una serie di contesti molto, molto variati, molto diversi tra loro e uno più bello dell'altro. Facciamo come sempre un pochino di storia e ci ricordiamo che Scicli, le origini di Scicli risalgono addirittura alla preistoria. E nelle epoche successive ha avuto praticamente ospiti tutto il mondo, perché ci sono stati greci, cartaginesi, romani, bizantini, fino a quando intorno al Novecento ha iniziato a subire il dominio arabo. Con il dominio arabo Scicli inizia il proprio periodo di splendore, acquisisce una potenza commerciale, cresce dal punto di vista della popolazione, si articola dal punto di vista delle abitazioni e inizia a diventare una città di un certo rilievo. Dopo la dominazione araba approdiamo al periodo normanno e approdiamo alla dominazione degli Svevi, a quella degli Angioini, insomma una serie di nuovo di successioni in termini di dominazioni che la rendono sempre più bella, sempre più grande, sempre più ricca, ma c'è un ma. Arriviamo a un momento in cui purtroppo Scicli viene sostanzialmente rasa al suolo dal terremoto che ha peraltro devastato l'intera Val di Noto. Siamo nel 1693. Si tratta di un evento che ha in qualche modo cambiato la storia della Sicilia e in particolare della Val di Noto, che la Sicilia, tra virgolette, ha usato per rinascere sulle proprie ceneri. Scicli è la rappresentazione di questa rinascita, perché proprio dal terremoto del 1693 Scicli decide, tra virgolette, di ricostruirsi. Teniamo conto che con la ricostruzione successiva al terremoto moltissime città della Sicilia sono state addirittura spostate, ricostruite vicine al nucleo originale, mantenendo il nome, mantenendo tutto quanto, e quindi ripensate ex novo. La rinascita di Scicli significa la rinascita e la creazione del barocco, di cui Scicli è una delle rappresentazioni secondo me più belle, e stiamo parlando del barocco siciliano. Il barocco siciliano, che naturalmente parte rifacendosi ai modelli romani ai quali gli architetti locali in realtà si rifanno, È in realtà uno stile completamente sui generis, compare nell'isola sostanzialmente nel XVII secolo, ma trova in realtà un compimento e un'espressione piena solo nel XVIII secolo. E lo trova solo nel momento in cui, dopo il terremoto, si inizia a ricostruire. Allora, abbiamo detto che si rifà al barocco romano, ma ha delle caratteristiche uniche che a Chic li troviamo tutte e troviamo nella loro forma più bella. Il barocco siciliano è un barocco eccessivo, è un barocco iperdecorato, scenografico, che gioca sulla esasperazione delle forme, sull'esasperazione dei colori, sull'eccesso. Nel caso di Scicli, tutto questo ci serve per capire un po' meglio la storia della Sicilia, cioè di nuovo, Valeria, l'architettura ci aiuta a capire la storia di un luogo. Tra l'altro, sicuramente il barocco in generale è uno stile eccessivo, però quello siciliano è anche molto avvolgente, mi viene da dire, perché rispetto magari a quello che trovi a Roma, che è la mia città e che io conosco, però quello siciliano è proprio più caldo, anche per i colori, e questo eccesso lo si vive con una certa normalità, forse perché proprio si trova in Sicilia e di per sé già un'isola eccessiva per tante cose. Ma sai che sono assolutamente d'accordo con te, tant'è che io in generale non amo il barocco, non è uno stile per il quale io vada matta. Il barocco siciliano invece mi piace moltissimo. Per il motivo che hai detto tu, che ci si sente avvolti e secondo me si ha la sensazione che in realtà, per quanto eccessivo, sia uno stile che nasce davvero da un'emozione vera. Mentre il barocco, chiamiamolo canonico, il barocco romano, il barocco tradizionale, è uno stile molto ricco ma un pochino più costruito. In qualche modo l'emozione del barocco siciliano è un'emozione che scaturisce, nel come lo percepiamo, da un sentire vero, non da una costruzione architettonica pensata a tavolino, e quindi ti avvolge di più, come dici giustamente tu. Nel caso di Scicli questo è evidentissimo, ed è evidentissimo come il barocco siciliano sia stato un modo per l'aristocrazia locale dell'epoca per affermare un potere, quindi di nuovo l'architettura racconta una storia politica e una storia sociale, perché all'epoca la Sicilia era in realtà ancora sotto il dominio spagnolo, ma era in realtà e veramente governata solo dalla propria aristocrazia locale. Nel momento in cui viene in parte rasa al suolo, per questa aristocrazia è il momento per affermare se stessa anche attraverso l'architettura e anche attraverso la costruzione di più palazzi, perché c'era la possibilità di passare una parte dell'estate in una zona più fresca, un pochino più alta in termini di quota, e quindi veniva costruito un primo palazzo e poi un secondo e poi un terzo, e quindi la bellezza e la ricchezza in termini di rappresentazioni architettoniche ci raccontano di come questa aristocrazia al momento potesse davvero fare quello che voleva. A Scicli nasce dalle macerie del terremoto un insieme assolutamente spettacolare di chiese, palazzi, di castelli, di mille sfaccettature con le quali l'architettura si è raccontata. Ci sono però delle cose che mi colpiscono più di altre, e come hai detto tu sono i colori di Scicli, perché questi palazzi hanno il colore della pietra locale, che è poi giocata, vedremo, dalla luce, che trova una forma di compimento attraverso la luce. Quindi è tutta bellissima, Valeria, però qualche esempio ancora più eclatante degli altri va fatto. Il primo che mi viene in mente, un po' perché è famosissimo, un po' perché è meraviglioso, è Palazzo Beneventani, che è costellato, davvero costellato di decorazioni grottesche, di animali fantastici, di maschere antropomorfe che sorreggono i balconi, ferri battuti, teste di moro. E sembra animato, secondo me, sembra che da un momento all'altro si metta a muoversi attraverso le strade e sembra in grado di raccontare le contraddizioni e la ricchezza in termini di storie e di dominazioni che hanno caratterizzato tutta la Sicilia. Un altro esempio che io amo moltissimo è Palazzo Fava, che è meno come dire, emozionale di Palazzo Beneventani e che riesce però in questo caso a giocare tra una leggerezza architettonica globale dell'edificio e una serie di elementi che comunque richiamano il tardo barocco. Anche in questo caso ci sono mensoloni scolpiti, ci sono balconi, ci sono particolari decorativi, però con una leggerezza che Palazzo Beneventani non ha. Poi ci sono, c'è il barocco religioso a Scicli, ci sono una quantità enorme di chiese, tra le quali secondo me San Giovanni Evangelista è uno degli esempi più belli e più strani, perché è nata nel 700 ed è poi stata completata successivamente, ma dà una rilettura in chiave tutta isolana dello stile barocco, perché ad esempio la facciata è in aggetto, esce da se stessa e in qualche modo investe il visitatore che ci passa davanti. La pianta è ovale e all'interno la prima impressione che hai quando ci metti piedi è quello che sia non una chiesa ma piuttosto un teatro, non solo per come è decorata, riccamente decorata, ma per questa forma un po' anomala. E poi ci sono miliardi di altre cose a Scicli meravigliose, ci sono le architetture militari che dominano la città in cima a San Matteo, ci sono le ville con i giardini mediterranei che in Sicilia sono sempre sorprendenti, ci sono i conventi, ci sono un sacco di piazze, di stradine. Il consiglio è di girarla a piedi e va girata senza un itinerario, conviene farsi sorprendere, per dire, dal fatto che le chiese siano alcune volte con delle facciate concave, altre convesse, quindi con un approccio un po' strano. Farsi sorprendere per esempio dagli incroci che sono studiati a tavolino dai progettisti dell'epoca e che sono interamente pensati per dei giochi di prospettiva che portano lo sguardo a cadere nel determinato angolo di un determinato palazzo. E poi ci si deve far sorprendere dai colori, che sono per tutta la città il bianco e l'oro sostanzialmente, perché a seconda della luce il colore della pietra è candido o è dorato e la luce in realtà a Scicli, come in molte città siciliane e molte città barocche, è stata proprio usata dagli architetti seicenteschi e settecenteschi per disegnare la città, per disegnare il palazzo, per giocare sui chiaroscuri. E quindi in sostanza andando a spasso ci si fa incantare dai palazzi, ma ci si fa incantare dalla luce e dal fatto che tutto questo insieme racconti la storia di una terra e racconti la storia di una serie di contraddizioni che ne fanno un paese drammatico e trionfale nello stesso tempo. Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via. Globetrotter 24. Dalla Sicilia risaliamo fino in Veneto, a Rocca Pietore, provincia di Belluno. Dal 2016 fa parte dei borghi più belli d'Italia con la frazione Sottoguda. Dal 2018 l'intero territorio comunale è stato riconosciuto bandiera arancione dal Touring Club italiano. Un territorio ferito nell'autunno del 2018 da una tempesta di acqua e vento che in pochissime ore ha distrutto migliaia di alberi. Il sindaco Severino Andrea De Bernardin ha scelto queste parole per descrivere il suo comune. Per descrivere Sottoguda mi vengono in mente tre parole importanti, tutte e tre. Una è borghi più belli d'Italia, l'altra è bandiere arancioni e l'altro è UNESCO. Forse metterei UNESCO per primo, per l'importanza che ha, perché siamo patrimonio mondiale dell'umanità con la Marmolada, che è la montagna che ci sta sopra alla valle e al borgo stesso. Quindi queste tre parole stanno a significare l'importanza che ha il territorio, insomma. Ci racconti un po' com'è il suo borgo e perché secondo lei vale la pena di arrivare fino da voi? Quando il direttore di Borghi Magazine è venuto in sopralluogo qui a Sottoguda, l'ha definito l'ultimo borgo, l'ultimo villaggio della valle, perché è una valle piccolina ma molto molto bella, al centro delle Dolomiti. Ripeto, siamo sotto la Marmolada e Sottoguda è l'ultimo villaggio proprio prima del Passo Pedaia, quindi prima della montagna vera, insomma. È adagiato in una posizione bellissima, ha delle peculiarità soprattutto evidenziate dai fienili di legno, sono costruzioni grandi come case, a più piani, inframmezzate in mezzo alle case in muratura, che hanno anch'esse tutta una specificità di costruzione tipica nostra dell'area ladina, quindi l'area del popolo ladino che vive le Dolomiti, e chi entra dentro in Sottoguda deve prendersi il tempo di uscire dalla stradina principale e di andare proprio in mezzo alle case a vedersi gli angolini, e quella è la cosa più importante da fare. È un villaggio piccolo, ma diciamo che una visita completa può riservare davvero sorprese importanti. Senta, sindaco, voi oltre a quest'ultimo problema che ha coinvolto tutti da nord a sud, 2 anni fa avete affrontato un altro, in qualche modo un altro affronto della natura. Devo dire devastante qui proprio nel comune mio di Rocca Pietore, ha colpito duramente quella tempesta chiamata Baia, che nell'ottobre, a fine ottobre del 2018, quindi è un anno e mezzo fa, ha rovesciato sottosopra l'intero territorio. Pensi che in un paio d'ore il vento unito alla pioggia scrosciante che cadeva da giorni è riuscito a rovesciare a terra 600.000 piante, abeti, solo sul territorio del mio comune. Siamo 1.200 abitanti, 600.000 piante sono cadute a terra in un paio d'ore. Questo per il primo momento ci ha causato un dramma turistico, perché il nostro comune è rimasto in prato per parecchi mesi. Siamo stati bravi a riaprire i sentieri, a prelevare il bosco laddove possibile, e credo che possa essere anche interessante venire a vedere quello che la natura può fare nel giro, ripeto, di pochi minuti, poche ore. Quindi il borgo non ha avuto fortunatamente danni, però il nostro comune è composto da 27 borghi, ce ne sono anche di altrettanto belli come Sottoguda, di Sottoguda, ma diciamo Sottoguda è il più caratteristico. Pertanto chi viene a Rocca Pietore può farsi un giro che dura una giornata intera solo girando i soli borghi del nostro comune. State attrezzando in maniera particolare, considerate le norme di sicurezza e considerate anche le richieste di sicurezza che sicuramente avanzano coloro che viaggiano, che si spostano? Devo dire che abbiamo avuto un piccolo picco anche noi di contagi, ma poi si è ridotto praticamente a zero. Adesso siamo a zero contagi sul nostro comune. Quindi bene, mi sembra, tutti quanti si stanno dando da fare per mantenere, perché sappiamo bene che se sbagliamo è peggio per noi, perché se sbagliamo ci chiudono di nuovo e la stagione è finita, quindi noi dobbiamo assolutamente fare la stagione nel miglior modo possibile. Il comune di Rocca Pietore è interessante perché si parte dai 980 metri del lago di Alleghe, lago di Alleghe che è metà sponda e comune di Rocca Pietore, per poi salire per 25 chilometri tutti nel comune di Rocca Pietore, che è molto grande, per poi salire con la funivia, anzi la funivia si prende a Malga Ciappella, ma insomma si sale noi 3270 metri di Punta Rocca, il dislivello più grande che si possa trovare nelle Dolomiti, credo uno dei dislivelli più alti che si possano trovare nelle Alpi, ed è uno dei motivi per venire a trovarci, perché dai 3270 metri della Punta Rocca si capisce bene perché siamo patrimonio mondiale dell'umanità, insomma. Quest'estate molte delle nostre abitudini cambieranno, diventeranno più flessibili e forse anche noi lo diventeremo. Per conciliare una richiesta di sicurezza e una necessità lavorativa, in molti stanno cercando case da affittare. Giacomo Trovato è l'amministratore delegato di Airbnb Italia. Da poco ha rese esplicite le date in cui ci si potrà muovere sia all'interno dell'Italia sia da e verso l'estero. Abbiamo visto una crescita importante. Considera che partivamo da livelli piuttosto bassi, quindi nonostante la ripresa abbiamo ancora del terreno da recuperare. Però siamo molto soddisfatti e molti italiani sembrano vedere la luce fuori dal tunnel e si avventurano a fare una prenotazione per le vacanze. Che tipo di richieste avete ricevuto? Allora, da un punto di vista geografico, noi stiamo vedendo che le richieste sono per 4 su 5 richieste sono per l'Italia. L'anno scorso erano poco più della metà. Le destinazioni più ricercate sono la Sicilia e la Sardegna, che negli ultimi 3 giorni hanno visto il numero di prenotazioni triplicare rispetto alla settimana precedente. E poi la Toscana, con in particolare la costa degli Etruschi, che sta andando molto bene, la Puglia e il Trentino. Negli ultimi giorni abbiamo visto anche un primo recupero della costiera amalfitana, che invece era su numeri molto bassi, e invece negli ultimi 3 giorni ha visto le prenotazioni quadruplicare. Quindi questo è un po' il quadro geografico. In termini di poi tipologia di alloggio, quello che stiamo vedendo è che le persone ricercano una casa indipendente. Il 62% infatti sta ricercando case singole, ville o bungalow, l'anno scorso era circa la metà, mentre gli appartamenti rappresentano solo il 7% delle richieste, l'anno scorso erano il 17%. Quindi questo è un primo tema. Airbnb ha 120.000 case indipendenti, quindi i clienti trovano tante tante opportunità. E poi in termini di quali caratteristiche devono avere questa casa, stiamo verificando un grande successo delle piscine, quindi le case indipendenti con piscina, che sono 64.000 case su Airbnb, stanno avendo enormi riscontri, in particolare nelle regioni che più dispongono di queste strutture, vale a dire Toscana, Sicilia, Puglia e Umbria. E poi in termini di durata, i viaggiatori sembrano ricercare durate di vacanza superiore a una settimana. 2 ricerche su 3 sono per vacanze sopra la settimana, l'anno scorso erano soltanto 1 su 3. Questo riflette forse anche un po' quelle che sono le caratteristiche cambiate di questi mesi, perché magari con lo smart working chi può si porta il lavoro anche ove possibile, ovviamente in vacanza, diciamo così, in vacanza. Sono d'accordo con te. Diciamo, quello che vediamo è una fusione della finalità di villeggiatura con la finalità di lavoro. C'è un tempo, un po' le famiglie prenotavano una casa e magari uno dei genitori poi raggiungeva la famiglia nel weekend. Adesso il trend che stiamo intercettando è quello invece della famiglia in cui un coniuge o entrambi i coniugi possono lavorare mentre il resto della famiglia si svaga. Quindi la combinazione di piscina e wifi sembra essere per quest'anno la combinazione vincente. Senti, invece per quanto riguarda i prezzi, voi avete notato un incremento? No, sui prezzi non stiamo notando incrementi. In realtà quello che stiamo facendo, alla luce del fatto che trovano con un budget magari ridotto, alla luce un po' di tutto quello che è successo nelle ultime settimane, stiamo vedendo che tanti dei nostri host hanno attivato in realtà delle promozioni, o per durate del soggiorno superiore a un certo numero di giorni, oppure in certe stagioni, oppure per chi prenota in anticipo. Comunque ci sono tante promozioni in questo momento, e quindi no, in realtà vediamo che le persone stanno apprezzando, che trovano tante ottime offerte sul sito. Proprio alla luce del momento che stiamo vivendo, sono state apportate anche delle modifiche su, per quanto riguarda, tra virgolette, passami l'espressione, protocolli di sicurezza? Sì, quello che stiamo riscontrando chiaramente è una maggiore sensibilità di tutti al tema della pulizia. Quindi quello che faremo alla fine di maggio è introdurre un protocollo di pulizia e di sanificazione che è stato sviluppato in partnership con autorità sanitarie a livello mondiale, in particolare il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti, e quindi tutti i nostri host avranno la possibilità di passare attraverso una formazione ed una certificazione. Quindi è un tema importante che appunto intercetto da una risposta magari a dei timori delle famiglie. E l'altro, diciamo, tema che può spaventare le famiglie è il timore magari di fare una prenotazione e poi di non poter partire per qualunque motivo e di perdere dei soldi. E da questo punto di vista il 70% delle case su Airbnb ha delle politiche di cancellazioni flessibili che consentono a chi ha prenotato di rientrare integralmente in possesso delle somme fino a pochi giorni prima della partenza. Ci fermiamo qui. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.